Buonasera. Allora, aspettiamo ancora magari un paio di minuti, tempo che arrivino anche le altre persone. Non so. Allora, Nero è un programma che serve per masterizzare. E la masterizzazione, così apriamo una piccola parentesi, magari nel frattempo che aspettiamo ancora qualcuno che è rimasto bloccato per neve e ghiaccio. Allora, piccola parentesina, qualcuno di voi probabilmente sul proprio computer potrebbe avere il programma denominato Nero. Che dicono che è molto buono questo programma. Sì. Sì, sì, è sicuramente uno dei migliori programmi che ci sia in circolazione. Il programma Nero serve per masterizzare e con il termine masterizzare si intende scrivere su CD-ROM o DVD-ROM. Ora, voi sapete che quando andate dal negoziante che vende CD musicali, questo vi vende il CD e il CD è già scritto, per cui voi lo infilate nel compact disc e questo inizia a suonare. Analogamente, se andate a comprare un DVD, o adesso la nuova tecnologia che sta uscendo fuori, il Blu-ray, andate a comprare un DVD o un Blu-ray, lo mettete nell'apposito lettore, e questo vi fa vedere il film con tutto quello che ne consegue. Ebbene, i computer ormai degli ultimi 5, 6, 7 anni danno anche la possibilità di andare a scrivere i CD fino a qualche anno fa e negli ultimi anni scrivere i CD, i DVD, l'ultima generazione anche i Blu-ray. Ok? Questa scrittura si chiama masterizzazione. Blu-ray. Ora qualcuno mi potrebbe chiedere, ma scusami, ma perché se parliamo di due dischi o un disco e una chiavetta, parliamo di copia, mentre qua parliamo di masterizzazione? Perché effettivamente l'operazione che viene fatta a livello fisico è differente. Cioè quando noi abbiamo parlato di unità di massa intese come hard disk, come chiavetta USB, come abbiamo sempre parlato di unità magnetiche, d'accordo? Magnetiche, sì. Magnetiche. Sì, perché magari aspettiamo ancora. Quindi se voi prendete una calamita, sostanzialmente, la mettete tutto il giorno vicino a un hard disk o una chiavetta USB, questa a lungo andare si va a smagnetizzare. Quindi, peraltro, non fate questo esperimento. Se voi invece prendete una calamita e la mettete vicino a un CD o un DVD, al CD e al DVD sostanzialmente non gliene frega più di tanto, perché proprio il procedimento che viene effettuato è diverso. Voi sapete che il CD, come il DVD, come probabilmente anche il Blu-ray, hanno un raggio laser che va a leggere la superficie, quindi proprio la tecnologia che viene utilizzata è differente. D'accordo? Ecco perché la differenza di termini. In realtà poi la masterizzazione non è nient'altro che una copia, a tutti gli effetti, ma su un supporto diverso dalla memoria magnetica. È chiaro per tutti questo discorso, signori? Quindi quando io copio il CD, Lo sto masterizzando, sì. Poi, giustamente, uno dice copio il CD, ma il termine più tecnico sarebbe sto masterizzando il CD, perché in realtà proprio l'operazione che fisicamente il computer va a fare è differente. Ai fini pratici sto facendo una copia. Ora, esistono ovviamente centinaia di programmi che permettono di masterizzare. Tra tutti questi, il programma Nero è senza dubbio uno dei migliori. In realtà non si chiama proprio Nero, Nero è l'abbreviazione, ma se ci avete fatto caso si chiama Nero Burning ROM. Scritto Nero spazio Burning ROM. E chi lo usa sa che cosa vuol dire? È un gioco di parole. È un gioco di parole. Da Nerone, sì. Perché, allora, prima di tutto una premessa. ROM, sapete che si dice CD, ROM, DVD, ROM, quindi ROM sta per Read Only Memory, che vuol dire memoria sola lettura. E facciamo questa premessa. ROM vuol dire memoria a sola lettura. A sola lettura? Sì. Perché read only memory. E questa è la premessa. Ma in inglese ROM e ROME, che sta per Roma, hanno la stessa pronuncia, perché entrambe si pronunciano ROM. Nero, burning, ROM vuol dire, letto in un modo, nero brucia la memoria, quindi masterizza, perché fisicamente proprio c'è un raggio laser che va a bruciare parte della superficie e va a masterizzare. Ma è un gioco di parole perché vuol dire Nerone bruciò Roma. Quindi ora in poi quando utilizzerete Nero sappiate che state usando l'imperatore Nerone che bruciava Roma. Ma diciamo che in informatica ci sono spesso e volentieri questi giochi di parole. Poi soprattutto per chi come me è appassionato di software libero e cose del genere, ci sono molti giochi di parole comunque. Va bene, Nero è un programma a pagamento, quindi chi ce l'ha installato sul proprio computer l'ha sicuramente pagato. Appunto, l'ha sicuramente pagato. Anche perché tutti i miei studenti non si sognerebbero mai di farsi installare un programma che non sia regolarmente pagato. Ma, appunto, oltre ad essere uno dei migliori, dà tutta una serie di possibilità. Nel senso che i CD e i DVD possono essere utilizzati e per la copia nuda e cruda. Quindi fungere da memoria di massa e come supporti per essere letti dai vari lettori commerciali. Non so se riesco a spiegare. Dunque, il computer, per sua definizione, tra tutti gli apparecchi che abbiamo tra casa, auto, eccetera, eccetera, è il più duttile. Perché? Perché ha un apparecchio hardware, l'abbiamo studiato, ma soprattutto quello che ha di valore aggiunto è il software. Il software si può, come dire, adattare di giorno in giorno, di anno in anno, cosa che un televisore, almeno per il momento, ancora non può fare. Okay? O un autoradio non può fare. Allora, che cosa gli permette questa cosa qua? Gli permette, ad esempio, di leggere tante tipologie di CD o DVD o eccetera, eccetera. Nel mercato però, quando voi infilate un CD-ROM nel lettore CD o nel lettore dell'autoradio, o un DVD-ROM nel lettore di DVD, questi hanno un formato predeterminato. Mi seguite? È un po' come dire, io prendo la macchina che va a diesel, la macchina che va a benzina, ok? Tutte le macchine che vanno a benzina vanno a benzina. Quindi tutti i CD-ROM hanno tutti lo stesso formato. Tutti i DVD-ROM hanno tutti lo stesso formato. Ecco che invece un computer può leggere il CD-ROM, il DVD-ROM, il vatte la pesca ROM, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente Nero mi permette di masterizzare o in formato dati, o in formato CD, o in formato DVD, a seconda di quello che io gli chiedo di volta in volta. Quindi è un programma sicuramente molto duttile. Grazie. E comunque costa, perché adesso quanto costa? Sì, non costa, vuol dire. Tenete comunque conto che su internet si trovano anche dei validissimi programmi alternativi e gratuiti che potete installare. Sì, sì, ma ce ne sono tanti. Così va bene? Ok. Ora. Dove siamo arrivati la volta scorsa? Elenchi potenti numerati, abbiamo fatto... Sì, infatti. Le tabulazioni le abbiamo fatte. Perfetto. Ok, allora facciamo un brevissimo... Io lo do subito. Allora, facciamo un brevissimo riassuntino. Abbiamo visto in Word l'inserimento, la cancellazione del testo, l'annulla ed il ripristina, il salvataggio e l'apertura di un file. Dopodiché abbiamo visto la possibilità di zoomare sul testo, quindi far apparire più grande o più piccolo, e peraltro la lezione scorsa avevo anche fatto vedere come si fa con il control e con la rotellina, non so se l'avete provato a casa. Sì, quello. Siamo andati avanti con le tabulazioni. Lo so. Sicuramente lo sciopero prende sempre il venerdì. Poi, perché? Perché la gente va in vacanza, allora noi ce ne pensiamo meno. Lo so, diciamo che questo è un po' una spada di Damocle degli ultimi 2 o 3 anni, perché hanno preso sto andazzo da 2 o 3 anni, insomma. Vero è che non è colpa di nessuno, non è colpa mia, non è colpa dell'Università Popolare, non è colpa di nessuno, quindi purtroppo... Certo, mi rendo conto che se uno magari o non ha la macchina o non se la sente guidare da sera o tutto il resto, diventa un problema. Poi abbiamo visto gli elenchi puntati e numerati, quindi le varie possibilità per fare degli elenchi, le tabulazioni fisse e tabulazioni variabili. Non abbiamo visto le barre degli strumenti, perché? Perché abbiamo detto nella versione nuova 2007-2010 del programma, in realtà le barre degli strumenti sono in disuso, cioè non hanno più senso di esistere. E abbiamo visto l'interruzione di pagina. Poi abbiamo saltato l'intestazione del piedi pagina la volta scorsa, che è quello che quindi vedremo poi anche questa sera, e siamo passati al formato del paragrafo. D'accordo? Quindi, il formato del paragrafo l'avete provato, signori, a casa, sostanzialmente il righello, perché poi alla fine si parlava del rientro della prima riga, rientri destro e sinistro, e margini. Ecco, qualcuno questa sera mi ha chiesto, ma io ho provato, ma il rientro non mi funzionava, si spostava tutto il testo. Attenzione, perché se voi scrivete qualcosa, anche se siete alla terza, quarta, quinta riga, ok, sia che voi facciate rientro qua, che voi facciate rientro qua, o che voi facciate rientro da qualche altra parte, lui vi restringe tutto il testo. Perché? Perché? No, non ho spostato il margine, ho spostato il rientro. Perché rientra tutto? No. Perché dentro l'area. Ma che area? Della tabulazione. Perché il cursore non è fuori. Non è fuori, va bene, ma che vuol dire che non è fuori? Della tabulazione. Non c'è tabulazione qua. Qua? Beh, se io lo smuovo da qua, mi sposta comunque tutto. Come la mettiamo? Evidenzio anche solo due parti e mi evidenzia sempre comunque tutto. Come la mettiamo? Ma che è, le signore, non buttate a caso le cose. Perché mi fa il suo lavoro qua? Il rientro, dei rientri ne abbiamo parlato a proposito di un argomento. Che argomento? Il paragrafo. Signori. Devo uscire dal paragrafo. E come faccio per uscire dal paragrafo? Devo schiacciare un invio. Punto e a capo. Signori, questo non è Word italiano, A questo punto vado a scrivere qualcos'altro e lui ovviamente, dato che non ho cambiato i rientri, me lo continuerà a scrivere cos'ha. Ma a questo punto ho due paragrafi. Quindi, se io vado ad esempio qui e muovo questo simbolo, lui mi cambia solo il sottostante. Se io vado qua sopra e muovo questo simbolo, lui mi toglie, mi cambia solo il soprastante. Quindi, signori, imparate anche, guardate che di cose in questo corso ne stiamo davvero analizzando tante, ma dovete cercare di, a casa, fare, oltre che prove su prove su prove, anche 2 più 2. Se stiamo parlando del paragrafo, il paragrafo si individua con punto e a capo. Quello è un nuovo parametro, un nuovo paragrafo. Quindi è ovvio che se voi mi scrivete 30 righe ma senza mai andare punto a capo, quando cambiate il rientro, quello vi rientra tutte le 30 righe. Ok. Poi c'era il rientro della prima riga, se l'avete provato a casa, e viceversa, se io voglio modificare effettivamente i margini, abbiamo visto, il signore mi sembra che la volta scorsa... Sì, l'ho provato. E funziona? Ok. Quindi se ci mette proprio tra i due spazi, uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro, si trascina ed effettivamente cambia il mio margine, d'accordo? Cambia effettivamente il mio margine. Benissimo. Detto questo, passiamo. Ci sono altre domande su questo argomento? Ok, prego. Sì. La tabulazione fissa? Vabbè. Allora, la tabulazione fissa, se semplicemente mi permette di muovermi di 2,54 cm per volta tutte le volte che schiaccio il pulsante Tab. Quindi, se io schiaccio il pulsante Tab una, due volte, Torino, una, due, tre, quattro, cinque volte, ad esempio, e schiaccio invio. Per andare a rincolonnarmi sotto Torino devo schiacciare una, due volte. Genova. Ok. Le tabulazioni variabili. Ma allora con le tabulazioni variabili però il discorso cambia, nel senso che io utilizzo questo simbolo qua, quindi vado a inserire una L ad esempio in questo punto, poi un punto decimale ad esempio in questo punto, e quando schiaccio Tab lui si sposta direttamente sotto la L. Cosa vuol dire? Vabbè, chiaro che... allora, deve poi andare a mettere un altro punto dall'altra parte. Eh sì, perché se lei ha solo la L, lui si incolonnerà sempre solo lì. Se poi non ha questo punto qua, a questo punto lui non vede più altri punti, per cui che cosa fa? Utilizza le tabulazioni tradizionali, per cui si sposta di 2,54. Viceversa, se lei mi mette una tabulazione qua, lui si sposta automaticamente lì sotto. Prego. Ecco, sono molto contento quando ci sono le domande, perché vuol dire che effettivamente le provate le cose. Prego. Ancora una. Sì. E mi è venuto fuori una linea tratteggiata azzurra con, mi sembra, sottoscritto intestazione. Sì, e lo vediamo adesso. Lo vediamo adesso. Ok. No, no, non è in realtà, è perché a me è successo già l'altra volta. Allora, io le rifaccio l'esempio della volta scorsa. Se io vado da un meccanico e gli dico non mi funziona la macchina, è un po' generico. Cosa vuol dire non entra in, cioè, cosa vuol dire non funziona Word? Vuol dire che non trova l'icona, vuol dire che ci schiaccia sopra e non parte, vuol dire che parte ma dà un messaggio di errore, vuol dire che questo messaggio di errore glielo dà dopo un po'. Cioè, dovrei sapere qualcosa di più, signora, non è ilarità, mi creda, è impossibilità di aiutare. Ok, allora, partiamo da un presupposto. Sicuramente c'è qualche passaggio che ometto. Ok, partiamo da un presupposto. L'icona di Word lei da qualche parte la trova? No, no, perché se la trovassi riuscirei senz'altro a... Ok, ok. Allora, iniziamo da questo punto fondamentale. Se lei va su Start, Programmi, vede la voce Microsoft Office? Sì. se entra dentro Microsoft Office non c'è Word? Allora, magari se lo scriva per la prossima lezione da provare a casa. Certamente. Se lo scriva, signora. Start, programmi, Microsoft Office e dentro ci dovrebbe essere Word, anche perché Word è proprio il primo programma della suite. Start, programmi, Microsoft Office. Dentro c'è una serie di voci all'interno della quale ci sarà Microsoft Office Word. Ora è chiaro che se lei arriva a casa e non ha la finestra, la cartella Microsoft Office, vuol dire che il programma non è proprio installato sulla sua macchina. Quindi iniziamo a capire questo. Se lei vede Microsoft Office, sicuramente Word c'è. E quindi inizia da lì. Okay. Ho capito, però... No, è giusto, magari potrebbe essere installato Word, però è un altro programma. Sì, però è diverso. Vabbè, iniziamo di qua, proviamo a vedere se c'è Word. E la prossima settimana ci riconfrontiamo. Ok. Allora, signori, torniamo ai nostri discorsi. Questa sera andiamo a vedere l'intestazione ed il piedipagina. Intestazione e pie di pagina, che sta per piede, sì. Intestazione pie di pagina. Dunque, l'intestazione e il piedipagina sono le due sezioni che voi vedete nelle pagine tipo i libri, tipo le riviste, cose del genere, che stanno l'intestazione tra il bordo superiore e il margine, il piedipagina tra il bordo inferiore e il margine della pagina. Quindi se questa fosse una pagina e qua si inizia a scrivere, l'intestazione sarebbe tutto quello che sta sopra. Solitamente nei libri è dove c'è scritto capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, magari il nome del capitolo. Sotto è dove, sempre nei libri, ci sono i numeri di pagina, pagina 1, pagina 2, pagina 3. Quindi quella parte sono due sezioni che sono estranee al corpo del testo, ma soprattutto che si ripetono in tutte le pagine. Al corpo del testo, quindi al testo vero e proprio, sia l'intestazione che il piedipagina. Sono estranei al corpo del testo e si ripetono uguali in tutte le pagine. L'intestazione in particolar modo, per chi di voi lo utilizzasse per fare delle lettere di tipo commerciale soprattutto, o lo utilizza magari a scuola, intenderci, nell'intestazione sarebbe bene andarci a mettere i dati dell'azienda e o della scuola. Cioè le persone hanno la tendenza a inserire i dati all'inizio del testo. Lo svantaggio di fare questo lavoro qua è che nella pagina successiva bisogna andare a reinserire i dati. Ed è chiaro che se voi fate una lettera di 2, 3, 4 pagine, per 2, 3, 4 pagine dovete inserire sempre i dati dell'azienda. Oppure, peggio ancora, non li inserite proprio, li inserite soltanto nella prima pagina e poi tanti saluti. Che è sbagliato. Cioè è sbagliato. È bene avere l'intestazione su tutte le pagine. Quindi scrivetelo per chi ha a che fare con Word in ambito lavorativo in particolar modo. Se avete a che fare con lettere, con documenti, cose del genere, tipicamente nell'intestazione ci vorrebbe appunto l'intestazione dell'azienda. Che non è da mettere all'inizio del testo, è da mettere proprio in intestazione. Perché? Perché in questo modo rimane sempre uguale per tutte le pagine. E non dovete stare lì a spostare su, spostare giù, eccetera, eccetera, eccetera. Per chi ha il Word 2000 e 2003, se non ricordo male, dovrebbe essere nel menu visualizza alla voce intestazione piedi pagina. Quindi per chi ha l'Office 2000-2003 va nel menu visualizza intestazione piedi pagina. O inserisce anche lì. Comunque, o è su visualizza o è su si inserisci. Guardate entrambi. Sul 2007 dovete andare sul menu inserisci e vedete che trovate intestazione e piedi pagina. Allora, se voi cliccate o sull'uno o sull'altro, ma non state a scriverlo perché è piuttosto intuitivo, vedete che cliccate su intestazione e analogamente, se cliccate su piedi pagina, vi appaiono una serie di modelli preimpostati di intestazioni e piedi pagina. Questo in realtà nelle versioni precedenti non c'è, vi appare semplicemente un piedi pagina standard, eccetera, eccetera. Ma poco male, voglio dire, qua semplicemente c'è qualche arzigogolo in più, che poi peraltro, parliamoci chiaro, a livello commerciale non è che vengono particolarmente usati, perché non è che devo fare arzigogoli vari. Comunque, se volete fare delle cose un pochino, ecco, una roba del genere, commercialmente diciamo che non è proprio il massimo. Se comunque volete qualcosina di un po' più elaborato, potete andare a scegliervi un'intestazione come meglio credete. Vedete che vi appare una linea tratteggiata che si pone proprio al di sopra del corpo del testo, perché se io ho il mio testo qua, vedete come l'intestazione sia sopra. Vedete? E se vado a inserire un'interruzione di pagina, vi ricordate che la volta scorsa abbiamo visto l'interruzione di pagina che fa saltare direttamente la pagina successiva, vedete come andando nella pagina successiva l'intestazione sia sempre uguale. D'accordo? Ok? Quindi si ripete per tutte le pagine uguali. Ora, quando voi inserite l'intestazione o il piedipagina, sia che utilizziate l'Office 2000, 2003, 2007 o 2010, vi appare una barra degli strumenti aggiuntiva. E vedete che è completamente diversa questa barra, non l'avevamo mai vista prima. Analogamente, se aveste l'Office 2000 o 2003, vi appare una barra degli strumenti esterna che prima non c'era. Quindi scrivetelo. Inserendo l'intestazione e o il P di pagina, appare una barra degli strumenti aggiuntiva. Una barra degli strumenti aggiuntiva. O P di pagina. Allora, prima di tutto il tasto, diciamo così, più importante, ovvero sia quello per uscire, così rispondo anche al signore che mi aveva fatto la domanda. Cioè, una volta che lei arriva qua, se vuole terminare il discorso, vede che c'è il pulsantone sulla sinistra, chiudi intestazione P di pagina. Destra. Destra per voi, sinistra per me. Quindi, una volta entrati nell'intestazione P di pagina, se volete terminare l'intestazione P di pagina, si clicca il pulsantone sulla destra. Anche nel 2003, adesso non mi ricordo se era a destra o a sinistra, comunque c'è chiudi intestazione più di pagina. Io faccio un'intestazione, poi voglio... Esatto. Esatto. Quindi, che ne so, io ad esempio qua nel titolo vado a inserire lettera presentazione azienda. Ok? Schiaccia, chiudi in testa, magari qua gli mette anche l'anno, se le interessa, 2012. Scusi? Niente, c'era già. C'era già. E fa parte proprio di questo tipo di intestazione. Chiude e a quel punto lui ritorna nel testo e ha inserito l'intestazione. Per ritornarci dentro basta farci doppio clic sopra. Quindi io ci faccio doppio clic e posso rientrare nell'intestazione. Il problema sull'intestazione. Sì. Non c'entra col titolo, vero? Non è lo spazio del titolo. No, è questa l'intestazione. Esatto, quello lì è un titolo. Perché in un libro, tu parli di una lettera commerciale, ma su un libro l'intestazione... Non c'è, è vuota, perché poi c'è. E chi l'ha detto? Se voi prendete le mie dispense hanno come intestazione il numero di pagina, pagina 23 di 26, pagina 25 di 26. Cioè, è uno spazio sopra il titolo, sopra il testo, e il titolo fa parte del testo, quindi il titolo fa parte del testo, giusto? Assolutamente. È un qualcosa che sta oltre al titolo, oltre al testo, sopra, che in una lettera commerciale sarà l'intestazione dell'azienda. In un libro, tipicamente, è il nome del capitolo. Tipicamente, ma poi è una scelta dell'editore barra autore. Se voi prendete la stampa, ad esempio, la stampa ha i numeri di pagina in alto a destra, come intestazione. È una scelta di chi va a stampare il documento. Quindi se fosse capito lo cambia anche il numero. Esattamente. Ok, attenzione però ad una cosa, che quello che voi scrivete lì sopra si ripete uguale su tutte le pagine. Quindi io lettera presentazione azienda nella pagina successiva sarà lettera presentazione azienda. Perché vi dico questo? Perché se ad esempio nel piedi pagina io volessi andare a inserire i numeri di pagina, andrò a scrivere pagina, e pagina è solo la parola che si ripete, ma poi non devo scrivere 1, devo andare nella intestazione e andargli a dire inserisci il numero di pagina. Perché se io gli scrivessi qua pagina 1, poi mi rimette sempre pagina 1. Perché vi ho detto, quello che voi mettete in intestazione e in piedi pagina si ripete uguale su tutte. Se voi volete far cambiare qualcosa, e tipicamente si vuole far cambiare i numeri di pagina, si deve andare nella sezione apposita. Ok? Vale anche per l'intestazione. Vale anche per l'intestazione. Quindi pagina 1 qua, pagina 2 lì. Allora, numero di pagina, lui qua mi dice in alto o in basso, io ho scelto in basso, magari che ne so, lo posso mettere anche centrale se mi piace più centrale, o in questa maniera se mi piace più in questa maniera. E lui mi mette il numero di pagina 1 qua, 2 qua. Sì, perché in realtà quello non è una scritta che gli sto andando ad inserire io, ma è una sorta di campo variabile. Cioè tutto quello che voi trovate qua sopra, tutto quello che voi trovate qua sopra, quindi nella barra degli strumenti, sono tutti campi variabili. Ad esempio, un campo variabile particolarmente utile quando si lavora in azienda è la data e ora. Perché? Perché se io schiaccio ad esempio qua il pulsante data e ora, lui, vabbè, a parte farmi scegliere che cosa voglio, come formato, eccetera, eccetera, vedete che mi scrive 2 febbraio 2012, ma non l'ho imputato io quel 2 febbraio 2012. Ciò vuol dire che se chiudo il computer e lo riapro domani, domani lui mi fa apparire 3 febbraio 2012. Allora è impostata male la data. D'accordo signori? Comunque lui prende la data del sistema, se la data del sistema, come potete vedere, è il 2 febbraio, lui scrive 2 febbraio, ok? Però quello che vi voglio far capire è che se io vado a selezionare questa scritta in realtà non l'ho imputata io, ma viene fuori da questo pulsante che si chiama data e ora. Quindi la data e l'ora, il numero di pagina, eccetera, eccetera, eccetera, sono tutti campi variabili e che non devo imputare io, perché se imputo io, quelli saranno fissi, non saranno variabili. D'accordo? Ok. No. No, perché se lei volesse cambiare questo valore, in realtà lo va a cambiare su tutte le pagine, perché l'intestazione ed il piedi pagina è uguale su tutte le pagine. Su tutte le pagine. Che ha anche un senso, cioè non vedetela come limitazione, ha anche un senso la cosa, perché è fatta proprio per questo. D'accordo signori? Benissimo. Mi devo dire forse che se io voglio mettere 12 febbraio posso metterlo anche se siamo al 2. Sì. Anche se nel sistema è il 2, io posso. Ma al di là del sistema di interprete che allora è una domanda mia. Se io voglio scrivere. Io posso mettere 12. Ah, ok. Ma è chiaro che anche sotto ci sarà 12. Non è che non può, però rimane chiaramente uguale per tutte le pagine. E attenzione, perché ancora diverso, perché il 2 febbraio 2012 l'avevo messo come campo, davanti ho messo l'1. Domani quello che succede è che l'1 rimane 1 e il 2 febbraio diventa 3 febbraio, per cui passa al 13. Che va tutto bene finché non abbiamo 19, perché poi diventa 110. Perché l'1 rimane 1, il 9 diventa 10. È chiaro il meccanismo per il Signore. Cioè il 2 febbraio è un meccanismo, è un... Una cosa interna al programma che diventa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in base ai giorni che ci sono. L'1 invece l'ho imputato io, quindi rimane sempre fisso. Ora va tutto bene finché stiamo fino al 9, perché diventa 11, 12, 13, 14, 19. Quando in teoria dovrebbe passare al 20, cosa succede? Che l'1 che io ho imputato io rimane sempre 1, il 9 diventa 10, per cui diventa 110. D'accordo? Comunque, chiaramente poi queste cose bisogna provarle. Prego. Assolutamente, non solo può, ma personalmente lo reputo molto consigliato. Uno si fa il suo documento, se lo cura, si cambia la sintassi, tutto quello che deve fare, dopodiché alla fine va a inserirsi intestazioni, piedi pagina e chi più ne ha più ne metta. Di solito l'intestazione del piedi pagina si mette all'inizio, soprattutto, ripeto, in ambito commerciale, perché uno ha dei modelli prestampati, prestabiliti, prefatti da qualcuno, e allora il tecnico, anziché il datore di lavoro, anziché quello che è, gli dice: ok, questo è il modello che devi usare, è già tutto fatto, tu devi solo scrivere la lettera. E uno si prende già il modello prefatto. Se però uno se lo imposta per conto proprio, magari ci scrive 2 o 3 pagine così, prima scrive tutto e poi si mette l'intestazione più di pagina. Ok, signori? Posso scegliere l'intestazione, se mettere a destra o a sinistra? Sì. Che funzione c'è? Non esiste. Metti a destra, posso usare centra, destra, sinistra. Esatto. Però lì non compare. Come no? O già mai? Cosa vuol dire non compare? Allora, rifaccio una domanda del Signore, così non ci distraiamo, e la vediamo insieme. Allora, giustamente il Signore dice: ma se io voglio spostarmi, ad esempio, l'intestazione o il piedi pagina a destra, a sinistra, ci sarà una funzione. E gli ho detto: la funzione c'è, qual è la funzione? E gli ho ribaltato la domanda. Giustamente il Signore mi dice: ah, c'è il centra, sinistra, destra, che abbiamo visto 1 o 2 settimane fa. Ma poi il Signore rilancia dicendomi: ma lì non c'è. Ma che righello? Sta andando così bene. Dov'è la funzione destra, sinistra, centra? Non inventate, per cortesia. Le abbiamo fatte queste cose. Seleziono. Ma cosa selezionate? Destra, sinistra, centro. Dove stanno? Stanno nella barra degli strumenti. Quale? Dove? Om. Perché lo dice così sommessa? Om. Ripetete con me? Om. Oh, signori. Om, basta che va su Om. E allora eccoli qua. Allora poi lì seleziona, picco pallino, eccetera, eccetera. Però voglio dire, signori, non vi perdete nei bicchieri d'acqua. Ripeto, guardate che di cose in questo corso ne stiamo facendo tante. Assolutamente, assolutamente. No, perché rimane là, vedi, strumenti di intestazione più di pagina. Quindi se io voglio in qualsiasi momento vado su strumenti di intestazione più di pagina. Se chiudi, scompare strumenti di intestazione più di pagina e chiude. Oh, signori, è lo stesso discorso che facevamo la volta scorsa con qualche signore o signora che c'era qua, nella zona di destra. E non c'entra niente con la politica, semplicemente era lì. Allora, all'epoca si diceva, allora, che cosa vuoi fare? Vuoi fare questo. Allora, se il programma... E guardate quanto è bella l'informatica, no? Se il programma ti dice, con un pulsante grosso così, stile divieto di transito per una formica quando sta per entrare in un vicoletto, chiudi intestazione piedi pagina. Io non clicco sul pulsante, ma clicco là, la sto chiudendo l'intestazione piedi pagina. Ma come sì? Ma come sì? Ma no, è che... Veramente, ma non è un... cioè, è proprio un qualcosa di logico. Allora, c'è il pulsante chiudi, io non ci clicco sopra, ho chiuso? No! Ma perché sì? Perché sì? Eh? No, ma purtroppo... adesso apro e chiudo la parentesi, non ascoltare l'ascoltatore. Cioè, io sono convinto che questa sia la mentalità italiana, cioè il modo per bypassare i problemi, cioè noi ce lo portiamo dietro anche in queste cose. Allora, c'è un pulsante chiudi, non ci clicco sopra, ho chiuso sì. Ma come hai fatto? Come hai fatto? No, ho chiuso, no. Tanto è vero che ritorna, rimane la barra degli strumenti, se ci clicco sopra continua ad esserci il pulsantone. Se clicco sul pulsantone, chiudo l'intestazione del piedi pagina e contestualmente mi sparirà gli strumenti dell'intestazione del piedi pagina. Tac. Prego. Non potrei usare il livello spostando i margini? Sì, ma ottiene un'altra cosa, nel senso che... Lavorando solo sull'intestazione. Sì, ma... Attenzione. Il margine è un qualcosa che vale e per il corpo del testo e per l'intestazione, cioè è un tutt'uno. Quindi se lei lo cambia sull'intestazione, in realtà lo sta cambiando anche nel corpo del testo. Se questo è quello che vuole ottenere, va bene, ma se lei lo usa per andare a modificare solo l'intestazione, non funziona, perché funziona anche sul corpo. Senza dover andare sulla home, abbiamo visto prima che su intestazione, se cliccavo sopra, mi dava i vari formati. In centro, spostare a destra, a sinistra. Sì, il problema è che nella versione 2000-2003 quella roba lì non c'è. Quindi è giusto il ragionamento che faceva il signore, cioè se io devo spostarlo a destra, a sinistra, a centro, ho visto i pulsanti sinistra, destra, centro, uso quelli, corretto. A questo punto il passaggio successivo è dove sono quei pulsanti? In home, schiaccio in home. Ok. Allora, signori, provate a casa nell'esercizio che era stato dato nelle prime lezioni di Word, cioè l'andare a scrivere una, due, tre, quattro pagine su un documento, provate ad andare ad inserire l'intestazione ed il piedi pagina. Se le pagine sono più di una, ancora meglio, perché così vedete proprio, ad esempio, per i numeri di pagina, come questi cambino solo se usate i pulsanti della barra. Quindi scrivetevelo, esercizietto, nel documento fatto di Word, le lezioni precedenti. Andare ad inserire l'intestazione del piedi pagina. Quante ne vuole? Sì. Il bello dell'intestazione, così come del piedi pagina, è che in realtà lei può andare a inserire quante righe vuole, cioè finché lei schiaccia invio, paradossalmente l'intestazione può arrivare anche a metà pagina. E questo, ripeto, è un vantaggio soprattutto per quelle aziende magari che vogliono mettere anche il logo, adesso fra un pochino vedremo come mettere le immagini, comunque anche il logo insieme ad un, che ne so, intestazione dell'azienda, ragione sociale, via, eccetera, eccetera, di fare... Precisamente, con 3-4 righe, questo permette, è uno strumento che permette di farlo. E, ripeto, il vantaggio grosso, soprattutto a livello commerciale, è che io a volte, ma poi te ne accorgi subito se fai quel mestiere lì, a volte vedo appunto le intestazioni nel corpo della pagina. È brutto innanzitutto perché ti ruba via dello spazio, perché c'è tutto lo spazio sopra che non viene utilizzato, perché l'intestazione te la vedi sotto. E in secondo luogo, perché se tu, ripeto, vai a farti magari due pagine, tre pagine, molte persone cosa fanno? Mettono l'intestazione soltanto nella prima. Il che ha anche un senso, perché giustamente magari l'operatore che si stava facendo quella lettera dice: ma cavolo, ma mi devo andare a ripetere l'intestazione su tutte le varie pagine? E se poi aggiungo, tolgo delle cose, devo prendermi l'intestazione, copia, incolla, fai, dici, diventa matto. Che fa? La mette solo sulla prima e per il resto non se ne parla più. Viceversa, se io me la metto proprio nella intestazione, a quel punto su tutte le pagine questa viene ripetuta. Ok, signori? No, io la definivo erroneamente barra degli strumenti, ma non è. Allora, quella sopra si chiama barra degli strumenti, solo che ci sono diverse barre degli strumenti. Quella dove si trovano i pulsanti destra, sinistra e centro si chiama barra degli strumenti OM. OM, ecco. Io ce l'ho lato, mi compare a lato, sulla sinistra, anziché in alto, sulla sinistra. Anche in alto, però. Ah, perché è la versione 2000 o 2003? Anzi, 2005 il mio. No. O il 2000 o 2003. Vabbè. Sì. Ok. Allora, signori. Argomentino successivo. Vediamo come inserire delle immagini. Certo che qua un gessetto sarebbe comodo. No, ma lascia adesso tanto. Sì. Io subito. Non importa, dai. Una ricerca del gesso. Allora, un applauso per... Ok, allora. Parliamo delle immagini. Le immagini possono essere fondamentalmente di tre tipologie. Allora, La prima tipologia è quella più utilizzata, che sono le immagini come noi le intendiamo tipicamente, cioè fotografie, cioè tipicamente fotografie, sì. Quindi possiamo scrivere immagini tra parentesi foto. Poi ci sono i grafici, che sono sempre delle tipologie di immagini, ma non sono l'immagine classica, cioè la fotografia, sono appunto dei grafici. Ed infine ci sono le clip art, le clip art sono delle immaginette preconfezionate che i programmatori hanno inserito nel programma. Che ne so, l'omino stilizzato, la casettina disegnata a pastelli anziché con la matita, la faccina che ride. Quindi ci sono tutta una serie di immagini preconfezionate, queste immagini preconfezionate si chiamano clip art. Poi in realtà vedremo che ce ne sono delle altre tipologie, tipo ci sono le forme, ci sono tutta una serie di altre cosette, insomma, le vediamo poi più avanti. Quello che mi interessa è capire le immagini, come ci arrivano sul nostro computer. Dunque, le immagini, innanzitutto, che cosa sono nel nostro computer? Da cosa sono identificate sul nostro computer? Da un file. Quindi le immagini non sono nient'altro che un file. Tutto è un file, signori, dentro il computer. L'immagine, il suono, il film, tutto immagine, il documento di Word, tutto è un file. Ora, questo file di immagine, come ci arriva sul nostro computer? Allora, il file. Sicuramente un esempio è la chiavetta, quindi diciamolo in maniera più generale, una memoria esterna. Quindi, memoria esterna. Cioè, cosa vuol dire memoria esterna? Vuol dire che un amico, un parente, un collega, un conoscente mi ha dato la chiavetta, mi ha dato l'hard disk portatile, dentro questa chiavetta barra hard disk portatile, o dentro un CD-ROM, perché memoria esterna può essere anche il CD-ROM, il DVD, che adesso sappiamo dirsi masterizzato, quindi mi ha dato una memoria esterna di qualsivoglia natura con all'interno delle fotografie, io ho queste fotografie. Ecco. L'altro caso, che in realtà è abbastanza assimilabile al primo, cambia solo il modo in cui ci finisce dentro, è la macchina fotografica. Ora, signori, siete ragionevolmente convinti che sostanzialmente stiamo parlando dello stesso caso? Perché anche la macchina fotografica ha una memoria al suo interno, che è la schedina. Quindi in realtà dire dalla memoria esterna o dalla macchina fotografica vuol dire la stessa cosa. Diciamo che li possiamo differenziare per la modalità nella quale ci arrivano in queste memorie le foto. Perché nel primo caso vorrà dire che qualcuno ce l'avrà copiata sopra. Nel secondo caso vuol dire che siamo andati noi in giro a fare clic, clic, clic e abbiamo inserito le fotografie dentro la memoria. Quindi diciamo che quello che cambia dal primo al secondo caso è semplicemente la modalità nel quale le foto sono apparse sulla memoria. È chiaro? Un altro caso, scarico da internet. Ora, per quanto riguarda quest'ultima modalità, la vedremo poi quando faremo internet. Sostanzialmente il modo con il quale un file di immagine può arrivare sul nostro computer sono questi tre. Quindi o me lo passa qualcuno, o lo scatto io con la macchina fotografica, o lo copio da internet. Tramite internet, sì, diciamo o internet mentre sto navigando o email. Per carità, sì sì. Sì, sì. Ma in realtà ce ne sono programmini che permettono di fare dei disegni. Già di suo il Windows ha negli accessori il programma Paint, che è molto basico, però mi permette già di fare delle cosine, sempre che si riesca. Ok. Allora, come lo porta nel Word non lo sappiamo perché non l'abbiamo ancora visto. Ma da qui come lo porta su un file? Glielo dica la signora. Io? No, il signore glielo dica la signora. Lo salva. Lo salva con un nome. Da un nome. Si fa come si farebbe su Word. File salva con nome. Se io sto scrivendo una cosa, poi come faccio il disegno? Allora, quello lo fa con le forme. Con le forme che ancora non abbiamo visto. Ok? Però, io adesso mi ero fermato qua. Quindi di qua si va su file, salva con nome e poi in qualche modo che ancora non abbiamo visto lo si inserisce in Word. Così uno può costruire un grafico? Sì, diciamo che Paint è per sua natura abbastanza limitato, nel senso che comunque non è che mi permetta di fare grandi cose, è per la scelta dei colori, è per la scelta degli strumenti, cose del genere. Su internet, ma forse ve l'avevo già detto, io vi consiglio un programma che si chiama GIMP, ma ve ne avevo già parlato probabilmente. GIMP è un programma che si può scaricare gratuitamente, installare gratuitamente, che oltre a fare il fotoritocco mi dà tutta una serie di strumenti che servono per fare anche dei grafici, dei disegni. Sì, sì, ma Paint è un programma che c'è dalle primissime versioni. Ripeto, il problemino è che è abbastanza limitato, ma fondamentalmente, guardate che il problema grosso di tutti questi programmi, anche se hanno più strumenti o quello che si vuole, il problema fondamentale è il mouse. Perché mentre io, anche se fossi un grande disegnatore, cosa che nel mio caso è molto lontana dal vero, ma se fossi un grande disegnatore io prendo la matita e inizio a fare questo lavoro con la mano. Il mouse gira e ti rigira e lo terrai sempre così. Per cui fondamentalmente, ammesso e non concesso, ripeto, che io fossi un grande disegnatore, il vincolo del disegnare su un computer è il mouse. Ma in realtà esistono delle tavolette, io ne avevo comprata una diverso tempo addietro, che ti permettono sostanzialmente proprio di scrivere sopra con una pennina e questa pennina ribalta sullo schermo del computer. Quindi in realtà se uno proprio volesse fare questi lavori con una spesa anche abbastanza irrisoria, perché siamo sui 100-200 euro, ripeto, è chiaro che uno deve averne uno la voglia, due la necessità e tutto il resto, se no 100-200 euro di questi tempi stanno meglio in tasca propria. Però voglio dire, con una spesa relativamente irrisoria, bypassa tutto il problema, si compra una di queste tavolette grafiche e quello che scrive sulla tavoletta, se disegna, cosa del genere, viene ribaltato in automatico sul monitor. Però se uno non ha voglia, giustamente, perché magari deve fare solo un disegnino ogni tanto, di spendere 100-200 euro, diventa un pochino più difficile, a volte è molto più comodo cercare un disegno simile su internet. Ne so, uno vuole farsi la casetta, che ne so, da mettere su una presentazione, va su internet, Google, casetta clip art e viene fuori la casetta clip art. Bravo, era l'altra cosa, ce n'era un'altra cosa che mi sfuggiva. Le immagini, un altro modo con, e grazie al Signore che l'ha detto, un altro modo con il quale queste immagini possono apparire sotto forma di file è la scannerizzazione. Che è proprio brutto in italiano, però comunque diciamolo in inglese, to scan, quindi scannerizzare, che poi tra l'altro è bellissimo perché in realtà il verbo in inglese è to scan, che in italiano sarebbe scannare, siccome però scannare era un pochino brutto l'abbiamo tradotto in scannerizzare, che è ancora peggio perché ci mettiamo mezz'ora solo per dirlo. Comunque il to scan che cosa vuol dire? Vuol dire che lo mettiamo, l'avevamo visto se vi ricordate all'inizio nelle periferiche di input, lo scan, è una fotocopiatrice dove io metto il foglio, invece di restituirmi un altro foglio mi restituisce quello che c'è sullo schermo. Quello significa scannerizzare. Ma nel momento in cui me lo trasferisce sullo schermo, quindi me l'ha digitalizzato, io lo posso salvare come file. Quindi è chiaro che bisogna avere lo scan. Sì, sì. Io pur avendo un programma non riesco a trasferirlo su Word per poterlo, non me lo scannerizza bene. Ecco, così come direi in altra occasione, non lo scannerizza bene, che cosa vuol dire? Il programma. Un programma. Sì. Io scannerizzo. Sì. Poi vorrei correggere. Quindi sta parlando di un testo, lei scannerizza un testo, sì. Vorrebbe correggere il testo che va a scannerizzare. E beh, certo che è difficile per il programma. Perché o compra uno scanner piuttosto di fascia alta con un software di magari 500-600 euro, oppure se compro un programma più economico, uno scan più economico, che va bene per la maggior parte delle volte, non ha il riconoscimento dei caratteri, o se ce l'ha, che funziona così. Però quello si chiama OCR. Che è eccolo lì. Però l'OCR funziona soltanto con scanner di fascia alta. L'OCR va bene con scanner di fascia alta, con caratteri particolarmente chiari, eccetera, eccetera, c'è tutta una serie di condizioni al contorno. Quindi non è facile. Non è banale, sicuramente. Diciamo che noi stiamo parlando comunque di immagini, quindi cose decisamente più semplici, come potrebbe essere una fotografia, questo la scannerizza, la fa diventare un file e via. Facevamo delle schede personali dei soci e inserivamo anche la fotografia, quindi la scannerizzavate? Sì. Inserivo appunto il documento o la foto, certo. E appariva sulla scheda. Certo. Perché prima era manualmente, poi invece avevamo il programma che faceva questo lavoro. Sì, sì, sì, esatto, e si parlava appunto di scannerizzazione. Sì, sì, sì. Sì, io direi questa sera lo vedremo magari la prossima serata, semplicemente perché non essendoci un po' di persone, questa sera abbiamo già fatto un po' di argomenti. La prossima settimana andremo a vedere proprio come si fa di inserire un'immagine, ma per i più volenterosi, per chi vuole andarselo vedere, basta che andiate nel menu Inserisci alla voce Immagine, e una volta inserita l'immagine, facendo clic destro Proprietà, c'è la disposizione del testo, questo per risponderle molto velocemente. Lo vedremo comunque poi la prossima settimana, perché sicuramente quella è uno dei casi più comuni nella disposizione delle immagini da vedere. Okay? Signori, buon weekend, ci vediamo venerdì prossimo, sciopero dei pullman permettendo. Step suite, una cosa così, ma non fa un cavolo, l'avevo pagato sui 100.